Ingrid. Dopo aver lasciato Lovisa a casa di una compagna di scuola e aver scambiato due parole con i genitori davanti a un caffè, come volevano le buone maniere, Ingrid diresse la sua Toyota Prius color argento verso i quartieri centrali di Stoccolma. Con gli auricolari infilati nelle orecchie, girò a vuoto per la città, facendo avanzare rapidamente la registrazione, fino al punto in cui Tommy era arrivato in redazione. Percorse a passo d'uomo Svea Wagen, tenendo il registratore nella mano sinistra, con il polso sul volante. La riunione con i capiservizio, una conversazione con un noto e premiato giornalista sulla sua ultima serie di reportage, un attimo di silenzio, il ticchettio delle dita di Tommy sulla tastiera del computer. Niente di particolarmente interessante, fino a quella che Ingrid calcolò essere l'ora di pranzo, quando squillò il cellulare di Tommy. Ingrid lo sentì rispondere mentre chiudeva la porta del suo ufficio. La voce che fino a poco prima era stata formale cambiò tono. «Ci vediamo tra poco, amore», disse. Silenzio. Ingrid trattenne il fiato. «Ah, anche tu non vedi l'ora di concederti una lunga pausa pranzo? Ho un po' di cose da fare, ma ci vediamo tra mezz'ora al solito posto». Ingrid si fermò a un semaforo rosso dalle parti della stazione centrale. Un paio di passanti attraversarono la strada trascinando due trolley. Un uomo dai vestiti lerci frugava in un cassonetto alla ricerca di qualche vuoto a rendere. Una donna spingeva una carrozzina. Fuori dal finestrino, il sabato pomeriggio proseguiva come se niente fosse, anche se il mondo di Ingrid stava crollando. Scattò il verde, e una macchina alle sue spalle si mise a suonare il clacson. Ingrid premette un po' troppo forte sull'acceleratore e partì sgommando. Senza togliere gli occhi dalla strada, fece avanzare la registrazione esattamente di 30 minuti mentre imboccava il ponte di Central Bourne. Il traffico era intenso, anche a causa di un cantiere che limitava la carreggiata a due corsie. Negli auricolari ascoltò Tommy attraversare la redazione, con il registratore nascosto che catturava i saluti servili dei giornalisti. Ingrid sapeva che Tommy ci sguazzava. Era una persona che aveva bisogno di sentirsi importante. Forse perché era cresciuto con un padre single, a sua volta giornalista. Ingrid aveva capito presto quanto suo marito fosse sensibile alle adulazioni. A tutti fanno piacere i complimenti, ma per lui conferme esteriori del genere erano fondamentali, più di tutto il resto. Era così che aveva giustificato il primo tradimento. Era successo all'inizio della gravidanza di Ingrid, che lo aveva buttato fuori di casa e perdonato dopo un paio di giorni. Lui le aveva giurato che era stata una botta e via, e lei gli aveva creduto. In ascensore lo sentì chiacchierare con due giornalisti sportivi. Calcio. Dal suo tono di voce, Ingrid capiva che era annoiato, che avrebbe voluto essere da un'altra parte. «Non vieni a mangiare con noi, capo?» «Mi piacerebbe, ma purtroppo ho un appuntamento. Credetemi, ragazzi, avrei preferito pranzare con voi e parlare del campionato». Risate di cortesia. Evidentemente, quegli idioti se l'erano bevuta. Non avevano capito che il capo stava andando a farsi una sveltina con l'amante. Dopo qualche istante di silenzio, si sentirono le porte dell'ascensore che si aprivano. I passi di Tommy rimbombavano, probabilmente era in garage. Ingrid cercava di immaginarselo, di entrare nei suoi pensieri. Aveva qualche rimorso di coscienza? Pensava a lei o a Lovisa in quei momenti? Si aprì una portiera e Tommy salì in macchina. Al suono di una seconda portiera che si apriva, Ingrid trasalì. Anche se nessuno aveva parlato, era sicura che ci fosse un'altra persona seduta in auto. Per un attimo pensò che forse si era sbagliata. Possibile che Tommy dovesse incontrare un informatore segreto? Stava passando in Södermalmstrand. Lanciò un'occhiata alle barche solitarie e abbandonate, in attesa che arrivasse primavera. Un attimo dopo, sentì una cerniera che si abbassava, e Tommy che gemeva. «Quanta fretta!» ridacchiò lui. Visto che mi obblighi a tenere giù la testa, tanto vale che mi renda utile. Quanto tempo abbiamo? Tutto il tempo che vuoi. Ingrid aveva le vertigini. Diede un rapido sguardo allo specchietto, accostò, si tolse gli auricolari e scese dalla macchina. Poi corse fino all'estremità della banchina e vomitò nell'acqua scura.